as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Allora, salve a tutti, siamo di nuovo qui al Pane delle Rose. Radio Città Fujiko, mi raccomando, sostenete Radio Città Fujiko, ascoltate Radio Città Fujiko, perché è una radio indipendente che dà la possibilità a tutti di poter parlare, dà anche a noi la possibilità di poter dire la nostra. Il Pane delle Rose è la trasmissione che cerca di parlare di lavoro, di lavoratori, di questioni sindacali soprattutto. E oggi abbiamo l'intervista a Michele Bulgarelli, neo segretario della CGIL, neo eletto. Abbiamo intervistato Lunghi martedì scorso, in realtà l'abbiamo fatto un po' prima, non era in diretta, che si parlava di rinnovamento e lui ci spiegava che ci sarebbe stato un rinnovamento. Il rinnovamento si chiama Bulgarelli per Lunghi. Ora, abbiamo intervistato e abbiamo chiesto il suo programma, quello che vuole fare, perché è importantissimo. CGIL, non dimentichiamo che sono 150.000 iscritti solo nella provincia di Bologna. È un sindacato grande, forte. Quando si muove la CGIL, il programma della CGIL è una questione importante, perché comunque sia è la forza più grossa sindacale ed è un punto di riferimento maggiore ad oggi dei lavoratori di Bologna e non solo, ma anche in Italia. Ecco perché è importante averlo intervistato. Adesso sentiremo un pezzo di Billy Bragg, un cantante che Bulgarelli ama particolarmente. Io ogni volta che lo intervisto ne metto un pezzo. Io, a me piacciono i contenuti, è un grande cantautore, più che la musica e la sua voce, però i contenuti sono spettacolari. Questa canzone che adesso mettiamo è Never Cross Picket Line. È quello che dico sempre ai lavoratori, ai crumieri, insomma, quando cercano di oltrepassare il presidio, il picchetto. È un consiglio, ma è più che altro quello che dovremmo fare. Non permettere mai a nessuno di oltrepassare la linea del picchetto. Ascoltiamo questo pezzo magnifico e poi sentiamo l'intervista a Bulgarelli, ci sentiamo per le conclusioni. 500 men sacked for refusing to ever cross a picket line. Voices down the IG's warning, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Cross a picket line. With their wives and children they stand together. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away. Look away out west to San Francisco. Look away, look away. Look away down south to Sydney Harbour. When the talkers have all line. Technically this is an illegal strike, never cross a picket line. But technically workers have no rights, never cross a picket line. You must never cross a picket line. Never cross a picket line. Where workers' rights are enshrined and written. Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away. Look away out west to San Diego. Look away, look away. Look away out east to Barro Saka. Talkers have organized the world's longest picket line. to come, but there's no improvement. Never cross a picket line. Now where is the might of the labour movement? Never cross a picket line. You must never cross a picket line. Look away, look away, look away down south to Auckland City. Siamo qui, congresso della FIOM regionale a Cervia, e abbiamo con noi il neo segretario della CGIL di Bologna, ex, io posso dire ormai ex, anche se sei ancora in carica, ma io ormai ti considero già un ex segretario della FIOM di Bologna, il mio ex segretario della FIOM di Bologna. Oggi hai fatto il primo intervento da segretario della CGIL davanti ai dei delegati. È stato un bell'intervento, molto applaudito, devo dire. Hai, insomma, raccontato un po' la tua storia. Noi vogliamo che qui in radio ci racconti un po', tu, Michele Burgarelli, segretario, neo segretario della CGIL di Bologna. Insomma, siamo tutti in attesa, perché con Lunghi abbiamo parlato che ci sarebbe stato un rinnovamento. Quando abbiamo intervistato, la tua candidatura era solo ipotizzata, ma non era ancora stato eletto, adesso è stato eletto. Insomma, questo rinnovamento di cui parlava Lunghi oggi l'abbiamo sentito, perché tu hai detto delle cose che hanno fatto capire, insomma, che ci sono delle cose che tu vuoi fare, basandosi sulla tua esperienza, che del tuo vissuto di questi anni. Insomma, raccontaci un po'. Sì, intanto grazie dell'attenzione. Io ho provato nella relazione programmatica, che è un po' la proposta che dopo la candidatura, secondo le nostre regole, avanzata dal segretario generale della CGIL affinché sottoscritto ricoprisse il ruolo di segretario generale della Camera del Lavoro di Bologna, io ho avanzato una relazione programmatica che conteneva le priorità che, qualora fossi stato eletto, avrei identificato come necessarie per quel rinnovamento sia degli obiettivi sindacali che anche nel metodo di lavoro, di cui, dal mio punto di vista, la CGIL di Bologna, che è la seconda Camera del Lavoro più grande d'Italia, ha bisogno. Il primo è la necessità di avere una CGIL... Scusa un attimo, la prima qual è? Milano. Ecco. La prima è la necessità di avere una autorevolezza della CGIL nei confronti della città, nei confronti di tutte le controparti, pubbliche e private, e anche autorevole, la Camera del Lavoro, nel panorama sindacale nazionale. Per farlo serve che il gruppo dirigente largo della CGIL di Bologna, che vuol dire l'assemblea eletta al congresso, che vuol dire i segretari generali delle categorie, la segreteria, fino anche ai delegati che fanno parte di tutte le assemblee delle varie categorie, possano discutere, prendere insieme delle decisioni, difendano le decisioni assunte sui grandi temi della città, cioè dove va Bologna, come vogliamo affrontare anche le emergenze che ha Bologna, emergenza abitativa, la scelta di sviluppo industriale, l'invecchiamento della popolazione, il sistema dei trasporti, il welfare, dove vogliamo andare. E quindi serve una discussione collettiva, l'assunzione di decisioni insieme e la possibilità di difendere con tutti gli strumenti necessari, quindi anche la mobilitazione, le decisioni assunte. Secondo, questa è più legata anche alla mia esperienza di una categoria industriale, rivendicativa, contrattuale, che fa accordi, serve una ricognizione del livello della nostra contrattazione collettiva. Se è vero che la CGIL è un sindacato generale e non aziendalista e corporativo, cioè che non si limita a difendere i lavoratori della singola impresa nella chiusa dentro i cancelli della singola fabbrica, è perché noi abbiamo un'idea di società e lo strumento per cambiare la condizione materiale dei lavoratori è la contrattazione e fare accordi con le controparti tutte. Bene, come siamo messi con la contrattazione? Serve andare a fare un'analisi diffusa del nostro stato della contrattazione, darci delle priorità. Io ne ho identificate 3: salari, lotta alla precarietà e inclusività, cioè riunificazione del lavoro, cioè un'azione forte sul tema degli appalti e subappalti, che è la nuova frontiera della precarietà, perché noi siamo bravi ovvero abbiamo soluzioni contrattuali più collaudate per limitare la precarietà che conoscevamo fino a un po' di tempo fa, interinali e tempi determinati. Siamo meno capaci di affrontare la precarietà prodotta da appalti, subappalti, cooperative, false cooperative, contratti magari anche firmati da altre categorie della CGIL con salari diversi da quelli dell'azienda appaltante. Quindi contrattazione seconda priorità, e qui c'è anche il fatto che nessuna controparte ci regalerà i salari e le stabilizzazioni, dovremo usare il conflitto in modo democratico, gestito coi lavoratori, in modo anche di responsabilizzare le persone per raggiungere i risultati attesi. Terzo, è un tema più sindacale che riguarda l'insediamento sindacale. Noi dobbiamo recuperare tesseramento e iscritti, eleggere nuovi delegati in tutti i settori. Io ho proposto un primo terreno di sperimentazione, che è identificare una decina di grandi siti industriali, dei servizi pubblici e privati, dall'università, l'Interporto, il Tecnopolo, l'aeroporto, grandi siti industriali, dove andare a ricostruire la filiera degli appalti, capire i contratti applicati, realizzare progetti di sindacalizzazione. Un quarto aspetto è quello di formare tutto il nostro gruppo dirigente anche sui temi valoriali, perché saremo di fronte a guerre culturali che attaccheranno la solidarietà, i diritti civili, il ruolo delle donne, i migranti. Questo governo sceglierà lo scontro sul piano culturale, noi dobbiamo essere attrezzati, quindi serve una maggiore formazione, serve anche una capacità di comunicare meglio quello che facciamo. Ultimo aspetto, la Camera del Lavoro può giocare un ruolo, visto che Bologna è una città europea, anche a livello internazionale. Noi non possiamo limitarci a essere un sindacato chiuso nel singolo luogo di lavoro, seduto sotto le due torri, chiuso ai grandi cambiamenti che attraversano il mondo. Noi dobbiamo studiare, interrogarci, capire come di fronte ai grandi cambiamenti del nostro tempo, ma anche agli attacchi alla democrazia e ai diritti dei lavoratori, serve a praticare la solidarietà internazionale. Allora, dei tre punti che tu hai parlato, la questione degli appalti è una questione che noi ce ne stiamo occupando al Panele Rose, e abbiamo parlato anche con Lunghi, abbiamo discusso con lui di questa logistica etica, perché quando parliamo di appalti a Bologna parliamo di logistica, e io penso che segnati due punti, salario e precarietà, le categorie possono agire e sono le prime che devono agire su questo. Sulla questione degli appalti c'è molto bisogno della CGIL, uno perché ci sono diverse categorie che affrontano la questione degli appalti, sappiamo benissimo che spesso le esternalizzazioni, quando si rompe la cosiddetta filiera e si va verso l'appalto e il subappalto, subentrano anche a livello di categorie diverse, ci sono dei problemi tra più categorie, spesso non sempre ci si riesce a colloquiare. Su questo aspetto qua, come agirà la CGIL di Bologna, che è l'aspetto più importante, no? La logistica etica e tutta la questione degli appalti e dei diversi anche categorie, ma c'è anche il problema dei diversi sindacati, perché c'è l'altra faccia della medaglia. Se ci sono alcuni piccoli problemi tra noi all'interno, tra varie categorie che devono affrontare la questione di raggruppare tutto, c'è anche il problema degli alti sindacati, e non parliamo solo di confederali, ma soprattutto degli alti sindacati, quelli di base. Allora, dicevo prima che il terreno degli appalti è il terreno della necessaria sperimentazione, dove ci sono meno soluzioni preconfezionate, come invece potremmo avere nella precarietà più conosciuta, dove se dovessi dire andiamo a prendere l'esperienza dei precontratti della FIOM, certo, di Bologna dei primi anni 2000, che tuttora rappresentano un argine contro l'abuso di lavoro interinale, di contratti a termine. Allora io penso che dobbiamo identificare una serie di grandi siti, che non sono solo gli appalti, non sono solo la logistica, perché secondo me se andiamo a pensare l'Università di Bologna, sì, ma anche il futuro Tecnopolo, ma anche i grandi cantieri che si apriranno a Bologna, penso la costruzione della linea rossa del tram, noi dobbiamo da un lato sfidare l'azienda capofila, che magari anche il pubblico, a mettere in trasparenza l'elenco delle aziende presenti nei siti. Il ruolo della CGIL, quindi come confederazione, sarà pretendere che tutte le categorie che hanno lavoratori presenti nel sito organizzino incontri, assemblee e discutano con le persone, darsi degli obiettivi concreti, cancellare la presenza dei contratti pirata se ci sono, e a quel punto avviare una stagione dove serve fare i contratti aziendali, capire la correttezza dei CCNL applicati, capire se i contratti sono giusti o se sono fatti per ridurre i salari dei lavoratori, e poi affermare che in tutti i luoghi di lavoro ci deve essere il diritto alla contrattazione di secondo livello. Perché se Bologna è la seconda città più cara d'Italia, un lavoratore ai minimi tabellari a Bologna è un povero, rischia di essere espulso dalla città e rischia di essere un working poor. Noi abbiamo bisogno a quel punto di affermare il diritto di avere un contratto aziendale, a confliggere se necessario, perché noi stiamo dentro l'idea, l'obiettivo programmatico anche di questa amministrazione della città più progressista d'Italia, ma non può esserci una città progressista se non si parte dalla valorizzazione delle persone che lavorano. E per la questione degli atti sindacati, che ci sono stati gli scontri, la questione del polo logistico dell'Interporto, che io penso che sia comunque una questione che c'è stato un accordo con Federale firmato da poco, ne abbiamo parlato con Lunghi, cerchiamo di parlarne anche con altri, che sarà innovativo su questi, in molti aspetti. Io penso che ci siano le regole alla base della contrattazione e quindi mi aspetto che tutti i soggetti, pubblici e privati, rispettino i sistemi di regole che ci si è dati a livello nazionale, quindi rispetto a chi sono i soggetti titolati a sedere ai diversi livelli di trattativa. Io sono cresciuto con la cultura che la democrazia dei lavoratori risolve i problemi tra le sigle sindacali, quindi i rappresentanti sindacali dei lavoratori devono essere eletti e quindi hanno la rappresentatività che gli viene data dal consenso che hanno dai lavoratori che... E con questo congresso il CGL sarà dappertutto così? Il documento congressuale votato dalla stragrande maggioranza, mi pare oltre il 98% a livello nazionale, dice che è impegno della CGL andare alla elezione di tutti i rappresentanti, tutti i delegati sindacali, realizzando l'RSU ovunque sia possibile e comunque laddove non possibile eleggendo le RSA. Quindi una scelta mi pare precisa. E quindi gli accordi, io sono cresciuto con la cultura che un accordo è valido se lo votano i lavoratori, io penso che anche qui il voto dei lavoratori risolve anche punti di vista diversi tra parte delle organizzazioni sindacali. Ok, ti ringrazio Michele, è stato abbastanza chiaro, poi adesso vedremo quello che accadrà e ci sentiremo sicuramente, perché di problemi, di questioni ne avrai mille, tante cose non ti abbiamo chiesto ma le affronteremo nelle prossime interviste. Grazie, grazie a voi. Ciao Michele. Se mescolato all'alcol. un tossico giovane, un posto della moda, quello che si non è stato amore, quello che si non ha paura, cammina leggero, sono di soldi me, cammina leggero, sono di soldi me, Reggio Parma, da Parma Reggio, a Modena, a Carpi, a Carpi, a Carpi al Tuvat, a Carpi al Tuvat, a Carpi al Tuvat. Allora, avete ascoltato Emilia Paranoica, un pezzo fantastico. Ogni volta che l'ascolto penso sempre che i CCCP sono stati qualcosa di ineguagliabile in Italia. Avete ascoltato prima di questo bellissimo pezzo dei CCCP l'intervista a Michele Bulgarelli, nuovo segretario della CGIL. Ci sono un sacco di cose che lui vuole fare. Sicuramente Michele Bulgarelli cercherà in qualche modo di far convergere tutte le forze sociali che ci sono a Bologna. stato tra quelli in FIOM che ha sempre sostenuto ad esempio i giovani che lottavano per l'ambiente, ha sempre chiesto la partecipazione dei delegati e funzionari delle manifestazioni sull'ambiente, manifestazioni per le donne, insomma sono questioni importanti. Sugli appalti in FIOM ha sempre cercato in tutti i modi di sindacalizzare laddove c'erano ditte in appalto all'interno delle fabbriche, alcune volte ci sono stati dei problemi con i sindacati di base, alcune volte invece si sono fatti dei buoni accordi all'interno delle fabbriche, si è riusciti a reinternalizzare. Insomma, la filiera degli appalti sarà la sfida principale a Bologna. L'Interporto, ma non solo, come lui ha detto, che è stato corretto quello che ha detto per quanto riguarda la filiera degli appalti, perché io ragiono da metalmeccanico e guardo il mio pezzo che è legato a tutta all'industria, ma non solo, alla produzione. Ma in realtà i lavoratori sono anche quelli dell'istruzione, sono anche a scuola, all'università, dove sono appalti su appalti. C'è la sanità, per non parlare anche lì, la questione degli appalti, che è ben diversa dalla nostra realtà. Ed è tutto da ricostruire, tutto da cercare di organizzare e soprattutto di evitare i dumping contrattuali, i dumping salariali. Questa sarà la sfida più grossa che lui avrà davanti. È ricostruire la CGIL laddove la CGIL ha perso degli spazi, ha perso degli iscritti. Ora, cosa dire? Io spero che lui riesca a fare tutto questo e soprattutto si riescano a portare dei risultati ai lavoratori che visibili, insomma, che le condizioni si possono migliorare. Perché, come ho detto anche l'ultima puntata, la logistica etica, gli appalti etici, l'eticità, se poi alla fine si risolve a solo un parlare, a solo degli slogan, in realtà non avviene veramente il cambio radicale della situazione, i lavoratori poi ci rimangono male e poi nasce solo la frustrazione, che non è mai una cosa positiva. Ora, io dico solo una cosa: l'Inghilterra in questo momento sta dimostrando tanto che si può fare, che si può lottare anche in situazioni di difficoltà sindacali, di leggi che fanno di tutto per impedire gli scioperi. La Francia sta per la seconda volta, è scesa in piazza per sconfiggere la riforma pensionistica di Macron e lo sta facendo unendo tutti i sindacati. Questa io penso che sia la linea per quanto riguarda le questioni nazionali. Oggi il salario e le questioni delle pensioni devono essere al primo posto. Noi abbiamo anche il problema della precarietà che da affrontare per ricostruire i legami all'interno dei luoghi di lavoro tra i lavoratori. Sono sfide che però hanno bisogno di una radicalità che deve esserci anche a livello di dirigenze sindacali. Bisogna che i nostri dirigenti sindacali si mettano in testa che devono fare come nei paesi in cui oggi stanno lottando, capire che serve la radicalità, che i tavoli non servono a nulla e non portano da nessuna parte, ma non devono essere scioperi di testimonianza, non devono essere scioperi giusto per farli, non devono essere mobilitazioni costruite così velocemente, ma bisogna costruire un periodo di mobilitazioni per riconquistare le 3-4 cose importanti che oggi sono fondamentali. Ecco, vi saluto con questo auspicio e ci sentiamo alla prossima puntata. Sorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino.